Letture di Radio 24. Dormire poco fa ingrassare. Una ricerca rivela il rapporto tra carenza di sonno e obesità infantile. Gli hamburger con le patatine fritte, come no? E le merende zuccherate, le bevande gassate, la teoria infinita di bomboloni e ghiaccioli da spiaggia che ci siamo appena lasciati alle spalle. Attenzione però, perché a causare il dramma dell'obesità infantile, dramma sì, perché è fatto di rischi per la salute futura e di vergogna, sofferenza psicologica, danni all'autostima, ci potrebbe essere dell'altro, meno di 8 ore di sonno per notte. Come evidenzia una ricerca appena resa nota dalla University of Washington di Seattle, uno degli elementi che sconvolgono l'equilibrio metabolico dei più piccoli sarebbe proprio la scarsa quantità di sonno. Secondo Janice Bell, tra gli autori della ricerca, i bambini che dormono poco la notte sono troppo stanchi per dedicarsi di giorno all'attività fisica che li protegge dal sovrappeso. Se a questo aggiungete la carenza ormonale causata dalla mancanza di sonno, c'è da concluderne che se vostro figlio fa fatica ad addormentarsi, non c'è solo da preoccuparsi che l'indomani non si presenti fresco a scuola. Dicono le ultime statistiche che circa 1 milione di bambini italiani ha molti chili di troppo. 1 su 4 nell'età nevralgica fra i 9 e i 12 anni, segnala Laura Bosio, pediatra endocrinologa dell'Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele, con una forbice fra nord e centro-sud. A Roma un maschio su 3 e una femmina su 5, al nord un maschietto su 8 e una femmina su 10. C'entrano l'ereditarietà, le cattive abitudini alimentari, la scarsa attività fisica. C'entrano però, oltre al girovita di mamma e papà e ai comportamenti acquisiti, leggi troppe soste al fast food e poche ore al parco, anche quei fattori che rimandano all'epigenetica, ossia quel complesso concetto scientifico che getta un ponte fra natura ed educazione, o se preferite, fra patrimonio genetico e ambiente. Come chiarisce Emily McAllister, ricercatrice sui medesimi temi all'Università della Louisiana, se chi ha un codice genetico prono all'obesità è esposto fin dalla vita intrauterina a un ambiente genetico sfavorevole, il suo patrimonio prenderà quell'abbrivio. Ma per complicare le cose, anche il neonato evidentemente sottonutrito può aspettarsi un futuro da obeso ed è quel che si chiama effetto carestia olandese. Molti bebè nati subito dopo la guerra, quando nei Paesi Bassi si faceva la fame alla visita di leva 19enni, risultarono infatti colossali, perché già nell'utero, dovendo far conto sullo scarso nutrimento che ricevevano attraverso la placenta, avevano accumulato troppi grassi di riserva. E se anche le peggiori condizioni iniziali possono essere ribaltate da un corretto regime di vita, su una cosa non transigono i ricercatori americani che accusano il poco sonno. Attenti alla troppa televisione, occhio soprattutto se le ore sottratte al riposo sono passate davanti al teleschermo o al computer. Così si impara il malcostume della sedentarietà. Ma se anche quel vizio l'hanno appreso in famiglia, dobbiamo derubricare il fattore alla voce genetica o a quella abitudini acquisite? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Egle Santolini, Se non fai la nanna ingrassi, dalla Stampa del 14 settembre. Letture di Radio 24. Un'inchiesta del Giornale di Sicilia rivela che molti politici eletti nel Consiglio Comunale di Palermo sono stati assunti, dopo la loro elezione, da diverse aziende, dove però risultano assenti per 26 giorni al mese. E l'amministrazione comunale spende 950.000 euro l'anno per rimborsare alle aziende le assenze dal posto di lavoro. Assumereste qualcuno sapendo che resterà assente 26 giorni al mese? Eppure c'è chi lo fa. A Palermo, purché il fortunato, si capisce, sieda nel consiglio comunale. Sarà il municipio, infatti, a pagare tutte le assenze, più i gettoni di presenza, ovvio, per un totale, tenetevi forte, di 3 milioni l'anno. Una somma pazzesca, da aggiungere a quella non meno folle, altri 2 milioni e mezzo, per i consiglieri delle circoscrizioni, le quali hanno 750 dipendenti e costano all'indebitatissimo comune quasi 20 milioni l'anno. Per capirci, 6 volte più di quanto è stato complessivamente distribuito con l'8 per mille nel 2008 alle 808 associazioni di volontariato italiane che tappano tutti i buchi dello Stato sociale. La denuncia è del Giornale di Sicilia, che con una dettagliatissima inchiesta di Giancarlo Macaluso dimostra con chiarezza accecante che tutte le autocritiche, tutti i buoni propositi, tutte le promesse, tutti i solenni giuramenti intorno ai tagli dei costi della politica erano aria fritta, soprattutto in certe realtà del Mezzogiorno, come appunto Palermo. Partendo dai gettoni ai consiglieri comunali, ogni eletto alla sala delle lapidi incassa 156 euro lordi a seduta per un massimo di 21 sedute al mese. Totale 3.276 euro. Direte teoriche, mica si possono riunire, tolti i sabati e le domeniche, quasi tutti i giorni. E invece sì. Oggi un consiglio, domani una commissione, dopodomani una missione. Eppure, come spiega il cronista, paradossalmente il problema non è tanto il costo, quanto la scarsissima produttività di un'aula che per mesi è rimasta paralizzata. Totale dei gettoni pagati in un anno, stando all'ultimo bilancio, 2.024.000 euro. Volete un paio di paragoni? A Torino, città assai più grande, il gettone di presenza, e il limite massimo scende a 19 sedute, cala a 120 euro. A Padova precipita a 45,90 euro, meno di un terzo. Le sedute del Consiglio in tutto il 2009 sono state 24 e il costo complessivo, commissioni comprese, è stato di 72.383 euro, un 28esimo rispetto al capoluogo siciliano. C'è chi dirà, ma lì la città è più grande. Facciamo un rapporto col numero di abitanti. Quei gettoni ai consiglieri sono costati nel 2009 a ogni cittadino padovano 34 centesimi, a ogni palermitano 3 euro e passa, 9 volte di più. Senza contare le spese esorbitanti dei rimborsi. Stando alle regole, Palazzo delle Aquile e alle aziende danneggiate da dipendenti che si assentano dal lavoro perché impegnati con le attività municipali, sommando le due retribuzioni, risarcisce non solo lo stipendio, ma anche gli oneri previdenziali. E parliamo di cifre grosse. Spiega Macaluso che mediamente ogni consigliere gode dei permessi per le attività in commissione, le missioni, le sedute d'aula e altri impegni istituzionali per 26 giorni al mese, praticamente tutto l'anno. Va da sé, come dicevamo, che all'idea di assumere qualcuno sapendo che marcherà visita 26 giorni al mese, ogni imprenditore risponderebbe «Non sono mica un baccalà». Bene, Palermo sembrerebbe piena di baccalà, che hanno preso in azienda dipendenti di un po' tutti i partiti, destra e sinistra, dopo la loro elezione a Palazzo delle Aquile. Totale annuale dei rimborsi alle aziende che hanno la sventura di avere a busta paga un consigliere comunale 950.000 euro. Quanto basta perché il cronista del quotidiano palermitano, con un pizzico di malizia dovuta alla scoperta in questi anni di troppi scandali e troppi furbetti, suggerisca, ironico, a volere dare un consiglio un po' truffaldino. Vi suggeriamo un trucco nel caso in cui non abbiate un lavoro e siate diventati consiglieri. Rivolgetevi a un imprenditore amico o a una cooperativa e fatevi assumere. Non che sia stato accertato che la pratica sia in uso a Palermo, precisa, però... Avete ascoltato alcuni passaggi dall'articolo di Gian Antonio Stella, Consiglieri assunti ma assenti, dal Comune, stipendi e gettoni, dal Corriere della Sera del 10 settembre. SMS ci hanno abituati a sintetizzare il più possibile i vocaboli e ora nelle comunicazioni scritte impazza una nuova forma di acronimo. Si chiama inizialismo e consiste nel sostituire le parole con le loro iniziali. Il FLI romperà con il PDL? Come reagiranno PD, UDV e UDC? E come finirà tra Fiat e CGIL, anzi FIOM? Che differenza c'è tra DIA e DIGOS? E cosa fa invece il SISMI? Cos'è meglio tra ENPAM, INPS e INAIL? C'entrano qualcosa con la SIAE? Ma fatti una TAC. Eccetera, eccetera, eccetera. Non è chiaro perché, ma parliamo e scriviamo sempre di più per acronimi. Cioè con quelle paroline, generalmente composte di 3 o 4 lettere, talvolta scritte tutte in caratteri maiuscoli, che sono formate con le lettere o le sillabe iniziali di determinate parole di una frase o di una definizione. Il fenomeno è universale. Impazza in tutte le lingue, ma soprattutto in inglese, idioma che ama le brevità e si presta al suono sincopato di una sigla. Il CEO, Chief Executive Officer, ha ormai sostituito la definizione completa di capo dirigente di un'azienda. Così come in Italia ormai si dice e si scrive sempre più spesso AD, piuttosto che amministratore delegato. L'acronimo ha invaso l'economia e la finanza, ma pure il sindacalismo, le forze armate, i servizi di sicurezza, il mondo accademico, lo sport, i media. Si va dalla TNT all'IBM, dal CENTCOM, Central Command, il comando centrale delle forze armate americane, al MED, Mutually Assured Destruction, la reciproca distruzione assicurata, formula che teneva il mondo in pace durante la Guerra Fredda, ricordando a tutti quale sarebbe stato il risultato di una guerra termonucleare. MED, folle appunto. Dalla CIA all'FBI, dal KGB alla Stasi, dall'ETA basco all'IRA nordirlandese, senza dimenticare BBC, DDT e VC. Poi c'è una seconda categoria di acronimi, che il trimestrale IL, acronimo di Intelligent Life, costola del britannico Economist, definisce inizialismo, ovvero la mania di dire le cose usando solo le iniziali. OMG, Oh My God, LOL, Load of Load, fatti una risata, ASAP, As Soon As Possible, il più presto possibile, e naturalmente WAGS, Wives and Girlfriends, mogli e morose, sottinteso dei calciatori della Premier League britannica, che con Victoria Beckham in testa ne combinano insieme ai mariti di tutti i colori. Un linguaggio, questo a base di inizialismo, che è ormai dominante in messaggini, SMS appunto, e anche email, dove c'è una gara a essere più telegrafici, a fare economia di parole e perfino di lettere, come in Cool 8R, che in inglese si legge See you later, ci vediamo più tardi. C'è addirittura chi chiude le comunicazioni con un TA per risparmiare qualche consonante e vocale anziché dire o scrivere thanks. La parola d'ordine è per l'appunto il risparmio di tempo e di spazio. Comunicare più in fretta perché gli altri non si distraggano. Gli acronimi, per la verità, hanno una lunga storia. Ripercorrendone le tappe, il trimestrale dell'Economist ricorda FDR e JFK, come venivano chiamati due grandi presidenti degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt e John Fitzgerald Kennedy, ma si potrebbe andare ancora più indietro. Ultimamente però le tre letterine danno l'impressione di voler conquistare il pianeta, come se non potessimo o sapessimo parlare in altro modo. Ma se da un lato è una tendenza criticabile, dall'altro si presta anche a nuove forme di creatività e di ironia. ISAF, acronimo di International Stabilization Force for Afghanistan, sigla del contingente militare della NATO, che fa la guerra ai talebani, viene tradotto da alcuni soldati come I suck at fighting, faccio schifo a combattere. E Alitalia, la nostra compagnia di bandiera, viene malignamente considerato in inglese l'acronimo di Always late in takeoff, always late in arrival, sempre in ritardo al decollo, sempre in ritardo all'arrivo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Franceschini, Acronimi, la lingua moderna si parla con le iniziali, da Repubblica del 6 settembre.